24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Si scannano su tutto, ma poi non cambia niente. Cambia se vogliamo che cambi. Mi scusi, Presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato e anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Eccolo lì, si è rifugiato in Gaber. Ma per fortuna purtroppo lo sono. Ebbene sì, allora, parole intercettate in questi giorni, oggi sui giornali. Piroetta, piroletta, buffonata, teatrino, farsa, giravolta, boh, scegliete voi. Ma forse noi italiani per gli altri siamo solo spaghetti e mandolini. Allora qui mi incazzo, son fiero e me ne vanto, gli sbatto sulla faccia, cos'è il rinascimento? E che è successo ieri? Non lo so che è successo ieri, io lo chiederò adesso ai miei ospiti del Parlamento. Intanto questo è 24 mattino, sono le 6:32 minuti e saluto Miriam Lucchetti in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè. Tu che sei alpino, fiero, patriottico, che è successo Peter? Dai dal labiale, ti capisco, che è successo ieri, hai capito tu? Ride. Che è successo? Hai capito? Miriam, tu hai capito che è successo? La supercazzola, fa Miriam dal labiale. È successa una supercazzola di tognazziana memoria. E vabbè, apriamo il nostro Parlamento che poi vediamo. Ma un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Ed eccoci a tutti quanti, anche al grande. Io non lo voglio il caffè della Minetti. No, tu basta. continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino d'un Milan. Mario Di Nolfi, buongiorno Marione, eccoci qua. Buongiorno, eccoci qua. Adesso ci aiuterai a capire, eh. Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, buongiorno, eccoci. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Intanto Maurizio, voi avete le mie ragioni, intervista esclusiva a Berlusconi, no, giusto per capire, è passato, cioè nel senso, è ancora attuale, parla di tante cose, ma l'avete fatta ovviamente, immagino, prima di... L'abbiamo fatta nel pomeriggio di martedì, nel tardo pomeriggio di martedì, quando ancora tutta la situazione era ovviamente diversa, in sospesa. Per certi versi, inevitabilmente ha qualche cosa che è superata gli avvenimenti, però dato che Berlusconi racconta quello che vuole fare, sì, in futuro, è comunque molto interessante. Vabbè, ah, questo certamente. Racconta ma perché ha spiazzato tutto? Si è spiazzato tutti, non si è capito, non so, voi ditemi cosa è successo. Adinolfi, per te cosa è stato ieri? Cosa è successo? Allora, guarda, la definizione di Miriam mi sembra ben tagliata. Ma diciamo super cazzola. Ieri è successo niente, fondamentalmente. Niente. Non è successo nulla. C'avevamo un governo sosseduto da alcuni parlamentari. Abbiamo lo stesso governo con gli stessi ministri, sostenuto gli stessi parlamentari, per inciso si erano dimessi i parlamentari, si erano dimessi i ministri, si era dimesso tutto, ma non è cambiato assolutamente nulla. Una cosa però è cambiata, su questo sei ingiusto quando vai a sentire, diciamo così. È cambiato che ci hanno tolto minimo a ogni famiglia 200 euro perché è aumentata l'IVA. Ah beh certo, qualcosa è successo, lì da loro non è successo niente. E guardate, alle nostre tasche è successo, ci sono 200 euro in meno. E guardate, se vi comprate la macchina invece di pagare la 10.000 la pagate 10.100. È chiaro. E tra l'altro Saccomanni si è affrettato subito a dire l'IVA rimane al 22%. È già legge. Che non cambia, certo. Ha detto, state sereni. È già legge, sottotesto. Finito. Quindi, ragazzi, ecco quello che è successo. Ecco, vanno sfilato minimo 200 euro di tasse. Esatto. Perché poi 200 euro pesano tanto. Diciamo. Maurizio Tortorella, è così. Che è successo secondo te ieri? Certo, tra l'altro ieri e ieri effettivamente è successo, come dice Adinolfi, che i nostri portafogli si sono sgonfiati un po' di più. E per il resto cosa è successo invece ieri in Parlamento? Beh, è successo quello che obiettivamente, cioè che Letta ha fatto un discorso, un ottimo discorso devo dire, e la conta dei dissidenti del PDL ha consigliato Berlusconi a ritirare lo strappo. A ritirare. Banale, sto dicendo proprio acqua fresca, ma questo è quello che succede. No, perché Daniela Santanchè dice... Ha capito che se fosse andato avanti nella richiesta di crisi si sarebbe trovato non in maggioranza ma in minoranza nel partito, o comunque sarebbero stati sufficienti i voti dei dissidenti per far andare avanti il governo contro di lui e contro la sua opinione, quindi all'ultimo momento ha deciso. Devo dire razionalmente, con ragione, di votare la fiducia, di cambiare idea, di votare la fiducia. Tra l'altro l'ha deciso così, sentiamo. Abbiamo deciso, non senza interno travaglio, di esprimere un voto di fiducia a questo governo. Ad Inolfi, anche in quel momento non riesce a non pensare a travaglio. Io ho pensato subito a questo. Noi non riusciamo a non pensare a lui, questa è la cosa. La mia teorizzazione sugli italiani fessi, diciamo così, fino ad andare avanti corroborandosi, insomma, ma hai letto i giornali in queste 24-48 ore che hanno scritto veramente tutto, che poi è stato il contrario di tutto, e noi appassionarci a fare 5 milioni di telespettatori a Ballarò con Cicchitto che litigava il consultore, nulla. Alla fine hanno votato insieme sul nulla. Quindi... hai ragione, sul nulla. C'è Vittorio Feltri, non l'abbiamo scaricato, ma Vittorio Feltri a Matrix, a un certo punto il paradosso è questo: Vittorio Feltri dice, sentite, basta, io me ne vado a casa, mi sono rotto le palle di parlare di Berlusconi. E c'era Luca Telese, ma hai appena scritto l'editoriale. Sì, ma anch'io l'ho scritto contro voglia, non ne posso più, la gente non ne può più. Non è vero, la gente si appassiona, la verità vera è che la gente a questo si appassiona. Che gli è aumentata l'IVA, tu hai visto un assembramento di 15 persone in una qualche piazza italiana? Sì, effettivamente hai visto una forma di reazione di qualcuno da qualche parte? Siamo un po' masochisti. Sono stilati i soldi di tasca, zitti e muti. No, ma infatti... gli italiani sono fessi, questa è la verità. Eccolo lì. Per esempio la segreteria telefonica... Bravo. Sono cattivi. Loro sono curioni. No. No, smettila che ce n'è tra, che ce n'è tra poco. Siamo anche un po' per la segreteria. Quando dobbiamo essere benevoli. Tra poco ce n'è per la segreteria telefonica, stai tranquillo che non è mica finita la tua disfida con gli ascoltatori. Maurizio, però, Maurizio Tortorella, effettivamente un po' di masochismo degli italiani c'è, cioè tutti, non so, oggi se avete già visto i giornali, ve lo dico io, ci sono 15-16 pagine di tutti i retroscena possibili di quello che è successo ieri, ma è possibile che i giornali maggiori facciano 15-16 pagine su queste cose qui, Maurizio? No, però che tra l'altro ieri, sai che io seguo con passione la cronaca giudiziaria, questa bulimia di notizie sulla politica sta facendo passare in secondo piano una notizia che dal mio punto di vista di garantista è fondamentale, e cioè che per l'ennesima volta la Cassazione ha annullato un procedimento avviato a suo tempo dall'ex magistrato De Magistris, perché ha distrutto, fondamentalmente mandando assolti tutti quanti, quasi tutti praticamente, gli imputati della mitica inchiesta Why Not. Sì, ho letto lo ieri, per esempio. Ho letto in un francobollo, per la verità. Esattamente, in un francobollo, perché tutto è passato in cavalleria, però, lasciamelo dire, perché appunto io ci ho anche scritto un libro sopra. Questa è la dimostrazione che chi impostò quell'inchiesta aveva sbagliato completamente tutto, e quindi ancora una volta salta fuori che certi magistrati obiettivamente politicizzati, visto che poi si sono messi in politica, fanno i sindaci, prima hanno fatto i parlamentari. Lì almeno hanno preso i voti, però insomma, sì, hanno preso i voti alle spalle e sulla pelle di delle vittime giudiziarie. Questa però la scolpiamo, insomma, è dura questa, hanno preso i voti addirittura sulla pelle delle vittime giudiziarie. La notorietà mediatica di Cioè, hanno, sicuramente quindi, hanno, in molti casi la magistratura, i magistrati che poi si sono dedicati alla politica, questo hanno fatto, cosa hanno fatto? Allora, vabbè, queste, sai che so che su questo, su questa volta ci dibattiamo e ci scontriamo anche. Voglio farvi sentire però Brunetta. Ah, no, attenzione, la Santanchè ha detto, ci sono un paio di interviste, anche questo prima di Brunetta, Mariona Dinolfi, ha detto, ma non vi siete accorti che Berlusconi ha vinto ieri? È come il Crodino. Ho letto la Santanchè sulla stampa, io solo quella sono uscita. No, io su Repubblica, sì, c'è un po'. Sì, ma anche sulla stampa dice la stessa cosa. Ma perché? No, cioè, no, nel senso, no, non... Fai sentire Brunetta, così capiamo. Sì, sì, Brunetta al mattino. Lo scandisce bene, il contrario esatto di quello che è. Al mattino. Non è che ho registrato le dimissioni di Brunetta, mi pare, né della Santanchè. No! Il contrario esatto di quello che è. Se io ero presidente di un gruppo, ero andato davanti alle telecamere a dire... è inequivocabile la sfiducia e dopo tre minuti che votano la fiducia io me ne lo so, lo so, ma come dice il grande Rotondi, come dice il grande Rotondi, quello che il politico dice lo vale per il secondo in cui lo dice, un minuto dopo non vale più. Brunetta al mattino poco prima della fiducia. Il presidente Berlusconi ha messo in votazione fiducia o sfiducia. Il risultato è stato unanimità per la sfiducia, c'è stata anche la controprova, nessun voto per la fiducia, ne è risultato la decisione del gruppo parlamentare del Senato per l'atteggiamento, la decisione della sfiducia al governo Letta. All'unanimità. Abbiamo fatto pure la controprova per la fiducia. Sì, esatto, hanno pure ricontato, no, dice. Esatto, forse però perché lui è capogruppo alla Camera, hanno votato al Senato. Mi hanno spiegato, dice. Se forse rimettiti, un sussulto di dignità per Brunetta. Hai dovuto pure cancellare un tweet. Dai, ah, è vero, sì, ha cancellato anche il tweet di questo. Però effettivamente sentiamo. Intanto passi da 19 a 16.000 euro di stipendio, non succede granché. No. Non è drammatico, si può sopportare. Però a questo proposito, Maurizio Tortorella, nell'intervista che avete di Panorama, che cosa dice Berlusconi del partito che sarà a questo punto? Perché effettivamente, cioè, allo Stato è un po' in pezzi anche queste situazioni. Il capogruppo che dice all'unanimità dopo mezz'ora. È sconfessato da Berlusconi. Sì, il partito che sarà lui ovviamente punta alla nuova Forza Italia, analizza quelli che sono gli ultimi sondaggi in suo possesso ovviamente a martedì, oggi non so più se siano assolutamente validi o no, se siano completamente stati sommersi da quel che è accaduto nel mezzo, è possibile. Non so, ti dirò anzi, perché io ho provato inutilmente stamattina a capirlo, che cosa effettivamente sia successo del gruppo dei dissidenti. Hanno fatto un gruppo autonomo poi o no? Beh, non ancora. Non ancora, quindi è tutto in totale divenire, obiettivamente. È un dettaglio, però, tra i titoli che tu ti sei dimenticato di citare, sì. C'è uno di Famiglia Cristiana, che è carino, che è Retromarcia su Roma. Retromarcia su Roma, ah beh, non è male. Questi di Famiglia Cristiana sono un po', sì. Hanno il peperoncino. C'hanno. Però era carino. Sì, sì, sì, effettivamente. Si era già visto, si era già visto con Grillo. Se non ricordo male. Anche Grillini ne hanno combinata una. Adesso noi solidarietà massima alla senatrice De Pin che adesso quando finirà di essere frustata, e poi dopo le offriremo un caffè se vuole, qui glielo offrirà Nicole Minetti. Passerà prima un po' per la Garrota, ghigliottina, due frustate e poi l'abbracceremo tutti affettuosamente. 24 mattino. Allora, io sono molto molto incazzato e arrabbiato perché da stamattina alle 6 che cercavo di ascoltare la tua trasmissione non è stato possibile. Sono a Latino, ho chiamato Radio 24 una prima volta, gliel'ho detto, un pochettino è tornato, adesso è andato via di nuovo. Adesso ho chiamato anche la radio che si sovrappone, Radio Kiss Kiss. Ho detto che quando voglio ascoltare Radio Kiss Kiss metto la Radio Kiss Kiss, ma quando desidero ascoltare Radio 24 pretendo di ascoltare Radio 24 e nessuno si deve sovrapporre, va bene? Ciao Milan, perché non riusciamo noi italiani ad andare sotto il Parlamento, piazzarci lì ad oltranza, e non li facciamo uscire fin quando non sentono le nostre ragioni? Guarda che il tuo respiro, adesso fra un po' te lo tassano, non respiriamo più, caro Milan, non respirare più che te lo tassano. È successo un caso, una cosa stranissima. Qualcuno alla radio prima ha detto: muoia Sansone con tutti i filistei. Il mio gatto, che si chiama Sansone e ha 12 anni, appena sentito, si è alzato e ha fatto mao, mao, mao. Secondo me era un vaffanculo nei confronti del re Berlusco e di tutti i suoi giullari di corte. Speriamo un bene. Pronto Milan, svegliati! Qui siamo ancora la primissima repubblica. I democristi vivono sempre per continuare a prenderci per il culo. Oh, oh, i democristi. Caro Alessandro, ho sentito che Adinolfi ha fatto rottamare la macchina. Ma lo sai perché l'ha fatta rottamare? Perché con quel culone che c'ha ha sfondato il sedile. Ciao Alessandro. Vabbè, Marione. Non è male. Marione, è il tuo momento, se vuoi. 1, 2, 3, come sai, puoi dire, puoi lanciare. Posso dire quello che dice Radimonetti? No, lancia, fai un 1. Lancio Sogni d'oro, una citazione colta da un film di 30 anni fa che fotografa perfettamente il pubblico di Alessandro Milan in questa fase, diciamo. Pubblico di merda. Pubblico di merda. Pubblico di merda. Sei un disgraziato. Ma io voglio dire una cosa a questi che veramente, perché io so che in questo momento in macchina chi ti sta ascoltando, sì, magari sta andando al lavoro, è cavolato. E si arrabbia se viene definito da me. È abbastanza, perché... abbastanza. Però, oggettivamente questa è la segreteria telefonica dei psicopatici, insomma, no? Cioè, no. È evidente, metti la una dopo l'altra su tutti i casi psichiatrici. Ora, il dramma è che nel frattempo gli fanno di tutto e loro borbottano questa bellissima idea della macchina come una pentola di fagioli che bolle, e loro, ah sì, politico cattivo, il tassista, meraviglioso, di solito il tassista. Tu sali su qualsiasi tassista. Non mi toccare i tassisti che sono che ci adorano, ci adorano. Il tassista è la fotografia del pubblico di merda. Tu entri nel tassì e il tassista comincia a dirti perché dovremmo andare, fare, e non fa niente. Tassisti di tutta Italia, unitevi! Hanno acquistato l'IVA, cioè per loro è un bel danno, per muti, vabbè. Perché non andiamo tutti davanti al Parlamento c'è stava mia figlia che giocava sulle stelline l'altro giorno. Niente, Tortorella, aiutami tu, qua c'è, è partita da 3 settimane una battaglia tra Adinolfi e... Ma perché non sussulta il popolo italiano? Non gli posso sfilare i soldi di tasca e non succede niente. Poi il sindacato decide... Il pubblico ha sempre ragione. Sentilo, bravo Maurizio, dillo più forte, il pubblico ha sempre ragione, questa frase alla Mike Buongiorno, alla grande. No, comunque una cosa che ha detto qualcuno, io l'ho detto da mesi, moriremo democristiani, è tornata la DC. E ieri Formigoni ha sibilato così, Formigoni, un democristiano arriva sempre fino in fondo. Eh beh sì, perché gira da tutte le parti. Sì, esatto. Una delle battute carine che giravano ieri, sì, era che appunto Giovanardi era assolutamente coerente dopo essere stato berlusconiano fino al midollo eccetera eccetera, perché è contrario a, cioè era assolutamente favorevole all'accanimento terapeutico, e quindi gli piaceva l'idea che Letta andasse avanti. Indubbiamente in questo momento è il momento dei democristiani. È democristiani, sì. Sentite per esempio Sallusti come bolla, Formigoni. Marione, cioè, se l'è presa bene Sallusti in questi 2 giorni. Formigoni, uno salvato dalla furia manettara grazie all'elezione a senatore voluta da Berlusconi. Cioè volano questi stracci qui, insomma, che dobbiamo fare? Oppure... Poi c'ha ragione Sallusti, spezziamo una piccola lancia a favore di Sallusti che... ovviamente sembra il più realista del re, però dal punto di vista meramente umano non ti fanno un po' schifo questi traditori che hanno lucrato di tutto e da sempre di tutto da Berlusconi, che sono il nulla senza Berlusconi. Traditore, tu che hai fatto politica usi il termine traditore. Sì, ma... nel loro caso, se loro si presentano alle elezioni, cioè se il partito di Giovanardi e Formigoni e Alfano si presenta alle elezioni, prende il 2%, cioè questo deve essere chiaro. Se gli va bene, una battuta che girava ieri in relazione, era carina anche questa, sì. Che adesso fanno il gruppo autonomo, hanno già il nome, i Nomadi. Sì, infatti Sallusti chiude l'editoriale così: prima o poi dovrete passare per le urne. Quello è il vantaggio. Noi non possiamo prendere per il culo Razzi e Scilipoti e poi leggere su Repubblica ieri che Quagliariello lo fa per le figlie. Questa mi è mancata, no, per le figlie, io penso alle mie figlie, quindi, e allora quando c'era Razzi e Scilipoti erano due venduti, e questi qui invece sono per eroi che hanno però in questi due minuti, in questi due minuti dovete dirmi che pensate del Movimento 5 Stelle, quello che è successo. Vogliamo far sentire anche De Pin, la senatrice che tra le lacrime poi è stata presa anche insulti, uno gli ha detto ti aspettiamo fuori. Tra i molti responsabili appartenenti a quasi tutti i partiti rappresentati in quest'Aula, desidero, in quanto eletta nelle file del Movimento 5 Stelle e quindi in diretta conoscenza dei fatti. Vabbè, parlava, le tremavano anche i fogli, no? Mario, non so se l'hai vista, le tremavano i fogli. Come psicopatiche? Per la politica serve, come diceva Roma, la pompa, cioè il cuore deve saper pompare bene. Ma che psicopatica chi? Chi psicopatica? Ah, dai, insomma, sembrava una mezza matta. Sembrava il discorso di una persona politicamente solida. Sembrava una politicamente solida. Ma che c'entra psicopatica? La capogruppo del Senato che ha detto a certo punto siete niente. Sentiamola alla taverna. O si governa o si va tutti a casa, non ci sono margini, solo un governo a 5 stelle potremo davvero avviare il risanamento del paese. In mezzo non c'è niente. Siete niente. Siete niente, una bella frase. Sì, vabbè, però Maurizio, 30 secondi, siete niente. Tutta la mia simpatia alla De Pin e tutta la mia antipatia all'isterica taverna, francamente. Sì. Come la penso io, lo sì, sai. Sì, torniamo sul 5 Stelle. Vi saluto dicendo che il nostro alpino Peter Bescapè oggi c'ha un sorriso a 74 denti, è arrivato, ha detto ho fatto un tweet e ho beccato 8 retweet da Beppe Grillo! Ed era lì 8 retweet di Beppe Grillo, proprio il profilo ufficiale Peter Bescapè. Che cosa ha scritto? Non lo so, credo che abbia detto siete niente. Non lo so, andate a zappare tutti, siete niente. Ma queste cose qua. Va bene, vi saluto. Grazie a Mariola Dinolfi e a Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, che trovate in edicola con Silvio Berlusconi, le mie ragioni. E adesso giornale radio. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Le 7:20 in punto, eccoci cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. Oggi vi racconteremo ovviamente la situazione politica, lo faremo in modo diverso invece che far parlare i protagonisti di ieri, di questo teatrino, non lo so come lo volete definire, sui giornali è definito in vari modi, da farsa a teatrino a piroetta, che è successo ieri al Parlamento. Noi invece vorremmo raccontarlo attraverso gli occhi di chi ci guarda dall'estero. Avremo ospiti due colleghi, due giornalisti, uno americano che vive in Italia e uno dalla Germania, un italiano che vive in Germania, per capire come ci guardano da lì e cosa pensano di quello che accade dal punto di vista politico in Italia. Questo più tardi, ora i giornali. Giovedì 3 ottobre i titoli, molti dei quali declinati alla situazione politica con la fiducia al governo Letta. Resa di Berlusconi, fiducia larga a Letta, così titola il Sole 24 Ore, mentre per il Corriere della Sera: resa di Berlusconi, ora il governo è più forte. Repubblica, la sconfitta di Berlusconi. Per il Fatto Quotidiano, la buffonata, questo è il titolo. Il Giornale, caccia ai berlusconiani. La Stampa, fiducia a Letta, il PDL si spacca. Il Messaggero, fiducia alla resa di Berlusconi. Libero, piroletta di Silvio. Il Secolo XIX, Berlusconi sfiduciato, il governo va. Per Avvenire, il governo c'è più saldo. L'Unità, Berlusconi perde la faccia, mentre

Il secondo invece per la prima volta con noi, lo ringrazio, si tratta di Ingo Zamperoni, cognome italiano ma assolutamente tedesco di nazionalità, è giornalista dell'ARD che è il primo canale pubblico in Germania. Buongiorno Zamperoni e grazie per essere con noi. Buongiorno, piacere. Allora, intanto vi chiederei velocemente una definizione di quello che è successo con i vostri occhi in Italia in questi giorni. Aaron Mains, la BBC è stata britannicamente molto soft nel dire una U-turn, no, un'inversione a U. Si può definire semplicemente così? Cosa possiamo dire di quello che è successo? Piace l'approccio britannico soft. Penso che gli americani sono stati abbastanza soft loro, però viene interpretato come una sconfitta per Berlusconi. Questo è fuori di dubbio anche nei grandi giornali, Wall Street Journal piuttosto che New York Times. Tutti hanno detto un po' Berlusconi ci ha provato ed è stato sconfitto. Si è reso conto che non poteva andare avanti così come voleva lui, che non avrebbe innescato una specie di salita come Fenice dalle sue ceneri e quindi ha abbandonato la pista. Cioè ha provato ma ha visto che poi i numeri del suo stesso partito non erano dalla sua parte. Quindi... Sì, non solo, credo che molti credono che a questo punto lui l'abbia fatto non solo perché non si sarebbe riuscito ad ottenere ciò che cercava, ma addirittura si è reso conto, se vado avanti così però perdo anche tutto ciò che ho. Questo è interessante, quindi i giornali americani comunque la pongono in maniera un po' meno soft, molto di sconfitta politica ovviamente dal punto di vista... Direi proprio di sì. Ecco, vorrei capire anche dalla Germania, Ingo Zamperoni, come i giornali tedeschi oggi o i telegiornali, come la ARD pone questa notizia, se ha un risalto ovviamente da un paese europeo molto importante, un altro paese europeo importante, l'Italia, però con una cultura politica forse diversa. Zamperoni. Ma molto simile anche, prima di tutto una sorpresa, perché qua in Germania Berlusconi viene visto come uno che... Ma il suo interesse personale per primo e poi il paese, si vede che in questo caso ha visto che con andare avanti così solo per i suoi interessi mangia sassi, diciamo qua in tedesco, e allora è questa una grande sorpresa che per la prima volta c'è stata una sconfitta internamente del suo partito che ha visto qua non mi seguono come sempre finora, e questo in Germania viene visto anche come un po' un'alba forse nella politica di questo partito di Berlusconi, che ci sono anche politici che vedono non possiamo solo fare politica che serve al nostro capo, però che serve il bene del paese, e questo viene visto molto positivamente. Tra l'altro Zamperoni, anche in Germania si parla sempre di questa grossa coalizione che c'è stata in passato, sì. Ora Angela Merkel che ha vinto le elezioni però presumibilmente non ha la maggioranza assoluta e quindi si andrà a una situazione simile. Ecco, noi in Italia abbiamo avuto finora il governo delle larghe intese e molti italiani dicono ma insomma è l'occasione per fare davvero delle cose e finora qualcosa è stato fatto, ma finora si è anche molto litigato. Dal punto di vista tedesco, questo come viene percepito? Ma la grande coalizione è sempre guardata un po' come cioè non la soluzione ideale. Per questo si sa che si devono fare tanti compromessi, perché ci sono sempre i due partiti che si tengono a bilancio. E per questo anche lì. L'importante è che qua guardano tutti è che ci sia una politica stabile. Allora si potrebbe anche dire in questo senso una grande coalizione è vista come un passo avanti che potrà continuare oltre i 3, 4 o 5 mesi, che non un governo che crolla dopo 6 mesi non serve a nessuno in Europa. Cioè la sensazione però, il timore è quello, cioè che sia una fiducia ma non un governo molto forte anche quello di Letta attuale in Italia? Ma diciamo in Germania che tutti erano contenti quando è andato al timone Monti, perché in Germania Monti è stato visto come uno molto stabile, molto serio, molto che non guarda a sé, però sembra di guardare il bene del paese. Letta è visto anche un po' come questo, uno un po' meno scintillante forse, però uno che si dà da fare. Per questo le reazioni sono anche di rilievo che è rimasto adesso in governo. Questo certamente. Aaron Mainz, di recente il nostro Presidente del Consiglio è stato in America, è andato anche alla borsa di New York davanti agli investitori, davanti a tutto il gotha finanziario mondiale, ha detto la stabilità è importante e ha invitato gli investitori a dire noi dobbiamo dare stabilità ma venite in Italia a investire perché l'Italia è un paese che può fare le riforme stabili. Ecco, come è stata la reazione secondo te? Nel senso, sono frasi che si devono dire o sono frasi in cui si deve credere da parte dei mercati finanziari? Ma un po' entrambi le cose. Bisogna dirli comunque e bisogna crederci per andare avanti. Io credo che ciò che ha fatto Letta ieri è stato, l'altro ieri comunque è stato... un po' come un bluff per rispondere a Berlusconi. Prima che Berlusconi è stato abbastanza sfiduciato davanti a tutti, Letta veniva vista, secondo me, come meno importante, forse più una figura di passaggio. Mentre adesso, secondo me, lui ne esce proprio rafforzato. E allora le sue parole sul credici, venite ad investire in noi, magari... la settimana scorsa, due settimane fa, tre settimane fa potevano essere visti più come parole di circostanza, cioè un po' ciò che lui deve dire nella sua posizione, mentre adesso si spera che uno possa dire beh, effettivamente c'è un governo qui in Italia che si sta prendendo forma, sta prendendo posizione e anche potere e porterà avanti il paese. Questa situazione di stabilità. Però, per esempio, Zamperoni ci vedono e noi percepiamo la Germania come il paese del rigore, dove ci chiedono e chiedono un po' a tutta l'Europa dovete fare le riforme perché altrimenti l'Europa vi bacchetta. Ecco, visto dalla Germania, questo secondo lei è il governo che potrebbe fare le riforme necessarie oppure voi avete anche un atteggiamento come dire ma tanto gli italiani non ce la faranno mai, non ce la faranno mai? No, non la vedono così pessimista, tanto anche i tedeschi sono abituati a avere un governo italiano che cambia ogni tanto. La domanda che gli ultimi anni ho dovuto sempre rispondere, ma come mai questo paese... si lascia governare da uno come Berlusconi negli anni passati. Invece adesso penso che Letta o il governo Letta in generale è visto come uno che sarebbe capace e questa cosa adesso ieri e l'altro ieri penso ha fatto vedere che anche, come diceva il collega, Letta è uno che è capace adesso. Prima era forse un po' più pallido, tanti tedeschi non sapevano proprio cosa faceva, chi era, però adesso si vede che può anche metterla sul punto e dire ok. Adesso cioè, è uno che ha dato l'immagine di battere politicamente Berlusconi in questo duello di queste ultime 48 ore. Esatto, ed è in un certo senso anche la prima volta che si vede così all'estero. Però dice lei deve sempre rispondere alle domande perché Berlusconi governa il paese, perché prende sempre tanti voti molto, molto banalmente. Ecco. Sì. È la domanda successiva forse che le chiedono perché prende tanti voti? Sì, anche quello, visto che adesso non è più al governo, però come mai il suo partito? Poi io dico sempre, beh, non è poi solo Berlusconi, è la destra, che anche in Germania chiaramente adesso ha un voto forte, però cioè, non si può paragonare in un certo senso Berlusconi con il suo partito con la destra qua in Germania. Mi interesserà capire tra qualche minuto dopo la pubblicità, oltre all'intervento dei nostri ascoltatori, ricordo il numero verde 800 24 00 24, sentiremo qualche telefonata, come anche viene trattata la politica sia in Germania sia negli Stati Uniti. Perché i giornali italiani per esempio abbondano anche oggi 10-15 pagine di quotidiani sulla politica. So che per esempio in Germania, ma vorrò chiederlo a Zamperoni se sia vero oppure no, pensate il telegiornale dell'ARD, cioè il primo canale pubblico tedesco, dura, mi risulta, ma chiederò conferma, 15 minuti qualsiasi cosa succeda. È davvero così? Cioè c'è anche un altro mondo possibile tra poco? 24 mattino. Eccoci qua, allora alle 8:37 minuti. Durante la pubblicità mi è arrivata una mail a 24 mattino e radio24.it, ce la scrive Marcello Manna da Anversa, ci sta ascoltando in live streaming e ci scrive: dall'estero ci vedono che da ieri ogni persona che incontro mi chiede che succede in Italia, ma senza esagerazioni, tanto ormai tutto il mondo è paese. Allora, prima di tornare ai nostri due ospiti, Aaron Mains del Wall Street Journal, Ingo Zamperoni, che è giornalista dell'ARD, canale pubblico della TV tedesca, vorrei sentire due ascoltatori. Vito dalla provincia di Brescia. Vito, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Ciao, buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti. Volevo dare una versione personale di quanto è successo ieri, di quanto fatto da Berlusconi, versione che tra l'altro mi ha permesso di vincere una cena con un mio amico questo weekend, nel senso che Berlusconi, come tutti sappiamo, è in eterna campagna elettorale. Io premetto che sono un elettore di destra, non estimatore Berlusconi, comunque un elettore di destra, nel senso che secondo me ha costruito tutto questo, cioè dalla sì, possibile dimissioni al rientro, diciamo così, perché lo userà come arma elettorale un domani, dimostrando che lui, per responsabilità nei confronti del paese, è stato costretto a rientrare. Cioè lei dice ha fatto tutto un teatrino, ecco, è stato... Secondo me sì, ha ottenuto due vantaggi: uno, di capire chi è o chi, è, o chi sì, non è sì, con lui, e appunto nella prossima campagna elettorale... Vabbè, lo userà, però questa, diciamo, Vito, è la sua interpretazione, poi è un'interpretazione plausibile, è una ricostruzione che c'è anche su alcuni giornali, ma va bene, questa è la sua lettura. Vito, la ringrazio, vorrei andare a Venezia, dalla provincia di Venezia, Renato, buongiorno Renato. Buongiorno, complimenti Milan. Dica. Una considerazione, ieri abbiamo assistito a uno spettacolo che a dir poco era penoso, no? Abbiamo assistito a un match, una partita di calcio. Io penso che andare in cerca chi ha vinto, chi ha perso, io mi accontenterei che vincesse il buon senso e la democrazia, e non andare a caccia di streghe a vedere chi ha vinto, chi ha perso, umiliare una persona oppure esaltare l'altra. Tanto un domani questo stesso teatrino lo vedremo a parti invertite, tra qualche mese, tra qualche anno. Sì, lei dice l'importante è che la politica faccia le cose, in pratica, che no? La politica faccia le cose, che vinca la democrazia e il buon senso soprattutto. E questo è un po' il tema anche dell'italianità e dell'approccio alla politica. Grazie Renato dalla provincia di Venezia. Vorrei Zamperoni, è vero che il giornale, ho detto una cosa inesatta, che il giornale dell'ARD, il giornale della TV pubblica, dura un quarto d'ora, 15 minuti? Ho più visto quello principale delle 8 della sera, davvero, però se poi c'è qualcosa che è di un grande evento, diciamo, non so, gli attacchi a New York dell'11 sì, settembre, certo, 2000, allora chiaramente apriamo il programma e lo aggiungiamo un quarto d'ora, un'altra mezz'ora o anche... Però se succede una cosa tipo ieri in Italia, voglio dire una giornata, cioè non è che è sempre un quarto d'ora, la politica quanto spazio ha, per esempio... Lì, ma tre quarti sono politica, esterno, anche interno, è lì. Però poi ne abbiamo un altro telegiornale alle 10 e un altro a mezzanotte su questo. Allora ci sono un sacco di telegiornali, certo, nella nostra rete. E so che lei invece dirige Tagesthemen, se non sbaglio, no? Sì, il, quello delle 10. Vale a dire il tema del giorno approfondito. È una litigio, non so, Aaron Mains chiedo anche sulla questione dell'approccio al racconto della politica. Certo, non ci sono quei retroscena in cui non forse sei abituato a leggere nei giornali italiani, no? Quei retroscena infiniti in cui si raccontano il dietro le quinte di cosa avrebbe detto, cosa avrebbe fatto, cosa avrebbe supposto uno e l'altro, no? Ma sì, l'approccio americano è più secco, più asciutto. Sostanzialmente un po' meno, dà un po' meno retta alla, diciamo, alle varie prese di posizioni, ai vari litigi interni, e cercano di raccontare obiettivamente ciò che è successo. Quando parlano della situazione politica italiana devono sempre fare un po' un panorama, perché Berlusconi, è inutile negarlo, ha getta ancora tuttora un'ombra molto lunga sulla visione dell'Italia visto dall'estero. cioè tutti conoscono più o meno chi è Berlusconi, tutti sanno più o meno questo nome, ma non tutti sanno Letta o gli altri, e quindi bisogna sempre, ogni articolo che ho mai letto sull'Italia fa un po' un riassunto della situazione attuale, come un snapshot. Bisogna spiegare le 50 puntate precedenti, insomma, sì. Ogni, sì, ogni le 50 volta. Puntate precedenti della settimana scorsa. La questione che ci si chiede dall'estero, se ora il rilancio ci può essere e se quello per cui il governo è stato chiamato, è stato eletto, riesce a mantenere le promesse fatte. Ecco, da questo punto di vista, lo sguardo straniero, come dall'America per esempio, cosa pensano, Aaron? Ma io credo che l'Italia viene visto sempre un po' come un caos allegro, e che comunque sia, comunque vada, riesce a mantenersi un po' allegramente caotico. Quindi che Berlusconi va su o giù alla fine tocca relativamente poco gli americani, anche perché in questo momento bisogna riconoscere che noi siamo alla presa con una crisi tutta nostrana, che non è poi così dissimile da quello italiano. Gli americani non riescono però a capire una cosa fondamentale della politica italiana, cioè che non c'è l'elezione diretta dell'ufficiale. Del Presidente del Consiglio? Sì, cioè nel senso che noi vediamo sempre, parlo in modo molto spanometrico, ma noi vediamo sempre i nostri politici come rappresentativi del quartiere piuttosto che della città, piuttosto che del luogo, mentre in Italia non c'è questo stesso collegamento a livello di come vengono eletti gli ufficiali, e gli americani non capiscono questo, quindi non c'è un distacco che gli americani non riconoscono, non sanno proprio come potrebbe funzionare. Per esempio, uno degli elementi su cui battono molti giornali, ovviamente giornali soprattutto legati vicini al centrodestra, è la politicizzazione della magistratura in Italia. Ingo Zamperoni, questo discorso è plausibile in Germania? È un dibattito che c'è anche da voi? Cioè, in che senso, che sono gli estremi, i punti che trovano compromessi? No, della politicizzazione della magistratura. Sai, in Italia si dice ci sono due partiti anche in questo. Berlusconi è un perseguitato dalla magistratura perché le toghe rosse, mentre invece c'è chi dice no, la magistratura è indipendente e non c'è nessun accanimento giudiziario. Ecco, questo approccio in Germania si può accettare, oppure quello che decide la magistratura è considerato un giudizio indipendente, imparziale e assolutamente non criticabile? Ma critiche ci sono sempre, in un certo senso. Non è che si dice loro sono staccati da questo, è tutto un po' anche politica, su questo siamo vicini. Però direi che anche come in America, forse anche la vista sulla politica è forse un po' più secca, un po' meno, ma è pure emozionale, però un po' meno, più diritta forse, anche più forse anche meno scintillante. Sì, forse regala meno dal punto di vista anche del gossip, ecco, sì, questo si può dire. Allora, noi abbiamo ancora 7 minuti, se potete stare con noi dopo le informazioni sul traffico vorrei sentire anche 2 ascoltatori e vado a concludere con i miei ospiti. Eccoci qui, l'ultima parte di 24 mattino, sentirei Claudia da Napoli. Claudia, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Dica. Allora, io volevo fare più che altro una domanda ai giornalisti. Dica, che vengono faccia. Dall'estero. Volevo sapere perché si esaltano tanto le notizie negative, cioè tutto ciò che è brutto, invece di dare rilevanza chiaramente a una notizia positiva, ad un governo che chiaramente ha dato conferma di una possibile stabilità, quindi di una fiducia ad andare avanti, si parla di sconfitte, di Berlusconi, eccetera. Volevo chiedere, ma in genere fa molto più notizia, dà più emozione il negativo oggi? Dell'Italia? Beh, è una bella domanda, Claudia. Aaron Mainz e Ingo Zamperoni. Diciamo, in America, Aaron, come viene dato più risalto al negativo che c'è in Italia, non solo della politica, e perché non si riesce invece a dare il positivo, a raccontare il positivo di quello che c'è? Sì, è una bella domanda. domanda. Ma anzitutto credo che la notizia negativa tira sempre più l'ascolto, quindi questo è un dato di fatto. Questo un po' è vero, questo è vero. Però anche al di là di questo, ma non direi che viene posto solo in termini negativi. Tutti gli articoli che ho letto io parlano anche del successo di Letta nel tenere insieme un po' la coalizione e anche di speranza, diciamocelo, che l'Italia poi riesce a fare i reform che servono. Berlusconi semplicemente perché tira l'ascolto, Berlusconi è sempre uno. Berlusconi basta che se ne parli e la gente è all'attenzione. Un po' alla pagliaccia se vogliamo. Addirittura. Sì, Bunga ha segnato un po' l'epoca e quella è la parola che sento più spesso. Al di là di Bunga, Zamperoni in Germania com'è? Tira soprattutto il negativo dell'Italia, chiede Claudia, oppure ci sono anche delle cose positive che vengono raccontate? Ma io penso è molto simile come la situazione in America, perché prima di tutto giornalisti, noi parliamo obiettivamente di quello che è successo, non è che diamo un slant che dice questo è negativo, questo è positivo. E penso che questa situazione ieri e l'altro ieri, la vittoria di Letta è vista molto positiva in Germania, che Berlusconi questa volta, forse per la prima volta, non è andata come la voleva lui. E per questo dà anche speranza, penso, per questo anche un senso positivo, perché non come gli americani, però i tedeschi sono nella stessa barca, nel senso, con gli italiani, perché se la Grecia è un'altra cosa, però è più piccola, invece qua la preoccupazione grande è quella che se va giù l'Italia tira giù tutto il continente, per questo in Germania nel telegiornale guardiamo molto quello che succede. Con attenzione a quello che succede. A questo proposito, Zamperoni, io mi ricordo di recente che ci furono casi, poi mi aiuti sui nomi perché non ricordo, ma di un ministro, credo l'ex ministro della difesa, che si era dimesso per una parte della tesi di laurea copiata anni fa, di vacanze pagate, credo, a un banchiere, un esponente della finanza tedesco molto importante, una parte delle vacanze pagate da qualcuno si è dimesso. Ecco, qua se noi la raffrontiamo alla situazione italiana, questo devo dire, il rigore e il dimettersi per vicende magari viste da noi un po' minori, un po' meno gravi, come viene percepito invece quello che succede in Italia? Per esempio, c'è un grosso dibattito di fronte a una condanna definitiva di un importante leader politico, più volte Presidente del Consiglio, se debba decadere oppure no dal Senato. Ma cioè, io penso che, come diceva il collega, che Berlusconi in un certo senso tutti sbattono la testa, dicono come si può. E su questo chiaramente anche qua in Germania ci sono scandali e ci sono nessuno è perfetto, però... Ma che non è solo Berlusconi, cioè noi abbiamo tanti politici che hanno condanne o condanne magari non definitive oppure hanno fatto, però non c'è questo stesso rigore, è impensabile che in Italia se si scopre che uno ha copiato mezza tesi di laurea debba dimettersi da ministro, diciamolo francamente, perché in Germania sì. Ma forse perché lo standard per i politici, siccome sono persone pubbliche, sono più alti, perché sono dei leader che danno anche esempio, allora devono essere più santi in un certo senso, che forse non è giusto perché sono persone normali anche loro, però è questa l'aspettazione che tanti votatori hanno. Sentiamo anche Giacomo, allora ci ha chiamato da Prato. Giacomo, buongiorno. A parte Luca, ma non c'entra niente. Io non sono d'accordo. Lei di lui, no, come non c'entra niente? Io le ho detto di Luca da Prato, in Toscana si escono i coltelli per molto meno. Sto scherzando, ovviamente. Giacomo da Lucca, dica Giacomo. Grazie. Ma io non sono d'accordo con i due suoi interlocutori. E poi penso, volevo dire questo, ma si merita questa gente, questi nostri governanti, di parlare di loro? Io penso che noi parliamo sul niente, senza offendere nessuno, ed è una bellissima trasmissione. Loro non dicono niente e noi diciamo, siamo noi che diciamo, quindi sarebbe meglio dare piccole informazioni a queste persone che non sanno dire niente, non dicono niente. Cioè niente. I governanti, dice. I governanti, esatto. Quindi noi parliamo di loro e è una telenovela che si rigira un po' come quella 150 puntate, 350 Ma Giacomo, è un po' il tema che affrontiamo oggi. Guardi che se io avessi chiamato dei politici, come spesso chiamiamo qui, avrebbero appunto usato e messo sul solito copione a dire abbiamo vinto, abbiamo perso, il senso di responsabilità, ora le riforme, ora andiamo avanti. Ignoriamoli. Lei dice ignoriamoli, dovremmo addirittura ignorarli. Ma sa, la politica è una proposta, non so, la giro per concludere ai nostri due amici, corrispondenti, colleghi. Aaron Mainz, sarebbe giusto ignorarli addirittura? Come si fa? Forse sì, è una cosa che si autoalimenta, no? I giornali scrivono di cose più o meno inutili e quindi... ci sguazzano loro, i governanti, e si va avanti così. Aaron, si può addirittura rompere questo circuito? Magari potessimo ignorarli, ma ahimè abbiamo una responsabilità non tanto a loro quanto a noi stessi a non ignorarli. Proprio questo distacco che sento sia in Italia che devo mettere negli Stati Uniti tra l'uomo comune per strada e il politico, e soprattutto tra l'uomo comune e il processo politico, lo trovo preoccupante. Cioè la democrazia funziona proprio nel momento in cui non li ignoriamo, funziona proprio nel momento in cui parliamo di loro, in cui cerchiamo di influenzare i nostri politici, in cui cerchiamo di far sentire la nostra voce. Sì, però... nel momento in cui li ignoriamo, allora siamo veramente... Però dovrà anche la stampa italiana fare una riflessione di quando tutto questo è degenerato e ha portato ad avere 10-15 pagine sui giornali di retroscena della politica. Ci sarà stato un momento, Aaron, in cui tutto questo è sfuggito di mano anche ai giornali stessi, o no? Beh, penso che succede in Italia, ma non possiamo parlare. Oddio, ciò che diceva l'ascoltatore, in un certo senso, se non stiamo parlando di cose pratiche, di effettive misure, di cose fatte o non fatte, di idee che un politico ha o non ha, serio su qualche riforma, piuttosto che una legge, piuttosto che qualcos'altro, e scendiamo nella lotta di cortile, allora sì, sarebbe meglio ignorarlo. Ignorarli del tutto non no, possiamo. No, questo ignorarlo del tutto proprio no. Io mi devo fermare qui e voglio ringraziare Aaron Mainz, corrispondente d'Italia del Wall Street Journal e anche collaboratore dell'ANSA, così come ringrazio dalla Germania Ingo Zamperoni, giornalista dell'ARD, il primo canale televisivo tedesco. Grazie davvero per essere stati con noi, potete riascoltare tutto su radio24.it. Se volete su Twitter mi seguite Alino Milan e io ringrazio Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Domattina 6:30. Il nostro Parlamento, la Camera che si accapiglia sulla riforma costituzionale e il Senato che si accapiglia sulla decadenza di Berlusconi dovrebbero stare su Marte, perché non hanno la più pallida idea di cosa sia la vita dei cittadini, e quando dicono la stabilità del governo per il popolo non sanno di quale popolo stanno parlando. Dovrebbero andare tutti una settimana a lavorare in un call center con un contratto poco pro e il capo che gli cronometra le telefonate, e dovrebbero mandare tutti i loro figli alla scuola pubblica ad accapigliarsi con la preside perché non c'è la lavagna in classe, perché alla prima riunione ci dicono, sapete cosa ci dicono? Portate la carta igienica. Questo è il paese reale e tutto il resto, perdonatemi, sono fandonie. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.